Vorrei sapere se vi rendete conto del linguaggio che voi adoperate. Sì, e non ce ne frega un cazzo, Camillo. No, sì, non ce ne frega. Tu pensi che i tuoi colleghi non utilizzino solamente il linguaggio formale, quello da ufficio, eccetera, eccetera? No, escono fuori, scoreggiano, ruttano, scopano. Probabilmente sarà anche laureato lei, si dovrebbe vergognare, guardi. Ma ti devi vergognare tu e le persone. Io tanto non gli ho dato del tu, le ho studiato del lei. Comunque lei, ma non me ne frega un cazzo di quello che mi dai. Io ti do del tu, io ti do del tu come do del ti a tu. Un linguaggio così scurrile. E quale sarebbe il linguaggio scurrile? Non ho capito. Quale sarebbe? Che dite, potreste evitarvele perché non c'è nessun motivo. E allora spegni la radio, non ci rompere il cazzo, no? Molto semplice, cioè, spegni la radio, non ci rompi i coglioni. Io ti lo vedi, lo vedi. Tu del tuo figlio della mignotta. Ma scusa, non bisogna dire per la razza. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Gioia. Milik contro Buffon è il rigore che può decidere questa Coppa Italia. Segna Milik e come nel 2012 trionfa il Napoli che vince la sesta Coppa Italia, ma questa è soprattutto la Coppa di Rino Gattuso. Napoli e Africa. Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta dell'elmo di Scipio, si cita la testa. Dov'è la vittoria? Le pro... E che succede? Le porca la chioma, che schiava di Roma, e Dio la creò. Diciamo già corte, sia pronta alla morte, sia pronta alla morte, l'Italia chiamò, sì! Sul lungo mare di Napoli con Gianni Occhiello per vedere cosa sta succedendo. Ecco, noi non siamo sul lungo mare ma siamo a Piazza Municipio, vedete i caroselli di auto e moto, questo è l'entusiasmo dei tifosi napoletani. Tutto mocca, uva, piatta, agnella, renegade, agi, chi c'è stramorto, Cristiano Ronaldo, Dybala, Bucchini, la mamma che sta in Argentina, e tutti i tifosi juventini, chi c'è stramorto. Il tifo è alle stelle e ovviamente in questo momento sono saltati anche le norme di sicurezza e quindi io chiuderei questo collegamento. Urmudone che basta via Modena vai, non chiamere basta amore, a che l'annuncio pensa, una femmina che te la va libertà. Scusa, si navolta. Non va se in coppa una zizza, per stu cazzo che non si arrizza senza te. Lo sai? Allisci me sto bebè. Vittorio Fetti, io sono di Napoli. Fruttani? Fruttani? Oggi torna così, raga, se vi siete salvati alla diretta siete miardati, fratelli no! Fratelli no, prendi il muro, fratelli! Dica, dica, dica, parli, parli, dica! Beh, amico Parenzo, beh, amico mio, che battaglia oggi! Perché ti sorprenderò, intanto Monterosa 91-2149, Mailand, lo dico in tedesco, grazie, grazie. Dagli studi di Roma ancora per una decina di giorni, poi chissà cosa accadrà, dal 29 giugno. Poi sarò trasferito da altre parti. Vediamo, vedremo. David Parenzo, eccolo buonasera, qui. Buonasera cari amici e forza Napoli sempre. Allora, perché bisogna dare una lettura politica di quello che è successo e poi ci fermiamo e chiudiamo. È la vittoria del sud contro il nord. Ma non è vero. Bisogna dare una lettura politica. Tutto è politico, dai, che tutto si può politico. È una grande vittoria, una grande rischio. Io ho visto quelle immagini terribili dei caroselli, di quello parleremo dopo. Una vergogna, quella roba lì è una vergogna, perché voglio dire, le norme di sicurezza vanno rispettate, anti-Covid vanno rispettate in tutta Italia. Vabbè. Ma è la vittoria del sud contro il nord. Ma che cazzo è il revanchismo? È il revanchismo del come sud COVID, come nel COVID, come nel COVID, la, bravissimo, è la legge del contrapasso. La Torino, che la legge del contrapasso per Dante agiva per analogia o per contrasto, come sai, avendo fatto anche tu il liceo classico. Come nel COVID, allora il sud vince sul nord. Il sud vince sul nord, ma c'è di più, c'è una lettura politica di questo sud che viene sempre bistrattato e che ha sconfitto la Torino operosa e posto operaia della Fiat, di FCA, dell'America. Allora ragazzi, vi sorprenderò, ma bisogna dare una lettura politica delle cose. Vi sorprenderò, ma nella... Però è una vergogna quei caroselli. No, vi sorprenderò. Allora, i caroselli di Napoli. È vero, è ferito un uomo, spari, sì, pazzesco, rapine, scippi a raffica, addirittura, il furto di un motorino praticamente in diretta, meraviglioso, devo dire la verità, meraviglioso, dall'alto il furto di un motorino. E vabbè, tutto questo fa parte della tradizione locale, come dire. Fa parte della tradizione locale. Va bene, però io voglio difendere, ti sorprenderò stasera, amico mio. Io voglio difendere coloro che sono scesi in piazza ieri. Hanno fatto benissimo. Avrei fatto come loro, esattamente come quelli. Sei un criminale. Non rubare, perché sei contro. Sei un criminale. Se riparte il contagio, come sta ripartendo? Ma vai a cagare, ma come sta ripartendo? 333 nuovi casi. Risalgo dei ricoveri in terapia intensiva. Eri il primo ad avere paura. Sei stato il primo ad cagarti sotto. Giù il microfono, Allora voglio assolutamente. Sei un uccello del melagramo. Sei un portasfiga. Mi tocco i coglioni. Non risale un cazzo. Allora, ragazzi, voglio essere dalla parte di quelli che ieri sera, sono scesi in piazza in ogni vicolo di Napoli. Sono dalla vostra parte, avete fatto benissimo. No, avete fatto benissimo, non bene, benissimo, soprattutto di fronte alle critiche. Sciagurati, per dirla con l'MS, sciagurati. Ecco, ecco, soprattutto sciagurati. Di fronte, lo sai a chi? Lo e ha ragione Salvini, dov'è De Luca? Dov'era De Magistris? Sentite, dov'era questo signore dell'OMS? Poi sentiremo le voci di Napoli. Le voci dell'OMS. Lo sai a Napoli, in Campania oggi, che qual è la situazione? Un nuovo contagio. Zero decessi. Beh, aspetta, non puoi vedere oggi. 50 ma che cazzo ma vuol dire? Ma tu sai che ormai 14 giorni, due in terapia intensiva. Vai a fare in culo. Hanno fatto benissimo a esultare. Io non vorrei che ripartisse l'OMS, il contagio. Ma a quel punto rido per te. Non è certamente quello che è successo perché ieri che lo farà ripartire. In onda queste registrazioni. Non è quello che è successo ieri che lo farà ripartire. Sei diventato buffone. Il pappalardo del COVID. Sei il pappalardo del COVID. De Magistris, anzi no, scusate, Ranieri Guerra, uno che non so manco chi cazzo per è. Quei morti che uno ci sono stati nel tuo nord. Non hai rispetto di quei morti. Fammi mandare l'OMS, dopo tutte le cazzate che hanno detto, hanno ancora il coraggio di parlare e parlano di sciagurati, perché tu sei praticamente il cadreghino, sei il portavoce dell'OMS, sei il capo dell'OMS, sei praticamente il lecchino, il portaborse dell'OMS, porti le borse con le siringhe, che fai? Porti le borse con i manuali, che cazzo fai? Ma figurati se porti le cose, criminale che non sei altro tu, criminale. Sciagurati, cosa vuole che le dica? Il problema è tutto lì. In questo momento non ce lo possiamo permettere. Ranieri Guerra, già uno che si chiama Guerra e lavora all'OMS, già dovrebbe far riflettere. Guerra, ottimo, uno bravissimo. Che si chiama Guerra non lavora all'OMS, dovrebbe lavorare, che non so, al Ministero della Difesa. Alla NATO, dici tu, no, ma cosa c'entra? Ranieri Guerra all'OMS. Combatte il virus. Si chiama Guerra perché dice, combatte il virus. Poi dice speriamo non riparte l'epidemia, ma non certo. È speriamo, sei dell'OMS, non sei il divino speriamo Telma. Speriamo che in conseguenza di il distanziamento è una delle poche cose De certe della cosa. Ma non rompere i coglioni. Una delle poche cose certe. De Magistris ha vinto il contagio della felicità. Ora però De Magistris, ecco, appunto, voglio come capire te la pensa, no appunto, ma io in questo caso dico forza i napoletani, viva i napoletani che hanno esultato, hanno fatto benissimo. Tu dici perché così si infettano bene. E muoiono, no, per quello no, lo no, dici assolutamente perché no, la tua non ti permetto, perché il tuo cinismo juventino non ti permetto, il tuo cinismo juventino non ti dice permetto bravi di dire che festeggiate una così no, riparte no, il virus. Qualcuno l'ha detto, riparte il COVID, io non lo dico. Hanno fatto benissimo a esultare insieme, ad abbracciarsi dopo la vittoria. Lo hai fatto pure io. A Napoli non c'è nessun contagio, non succede un cazzo e non succederà un cazzo. Sei un uccello maledetto del melagramo, un porta sfiga, non succede nulla. Speriamo, guarda, in tutto a Pechino sta risuccedendo, in Israele sta riaccadendo. Sei veramente un uccello speriamo, del melagramo, ma sei tu li veramente leggi un porta sfiga. Ma a Pechino, cosa sta succedendo a Pechino in queste ore? Ma cosa c'entra Pechino? mattinata di gioia per la sua città, perché il Napoli ha vinto la Coppa Italia ieri sera, e peraltro ci sono state caroselli, manifestazioni di gioia e anche credo fuochi d'artificio nella sua città, ma il distanziamento fisico è andato a farsi benedire, sindaco. Ha vinto il contagio della felicità ieri. Ha vinto, dire. Vabbè, speriamo che non porti altri contagi. Non credo. Senti questo, senti questo. Questa senti era questo, l'ottima, la 7, sempre questo, sul pezzo col questo, meraviglioso Pancani. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, senti questo, senti questo, senti questo. Spara, spara, spara. Boom, boom, non si sente un cazzo, vabbè. C'è uno che spara con la pistola. C'è uno che spara con la pistola a Napoli. Fammi sentire altre voci napoletane. Vabbè, ragazzi, questa è la tradizione. No, va bene, questo andrebbe arrestato. C'è uno con la pistola che andrebbe arrestato, con la pistola in mano, non so se è vero o finta, che spara in aria. Questo andrebbe arrestato. Perché come chi ha rubato? Sparare, scusa. Ho capito. Ma perché uno deve sparare quando vince dopo una partita di pallone? Perché quella è la tradizione locale. Ma posso chiedere amico perché mio, uno deve sparare? Perché? Perché? Allora, la cosa incredibile succede durante i collegamenti della RAI. Vediamo i caroselli, i festeggiamenti, poi alla fine sono costretti praticamente a chiudere. A chiudere, perché a un certo punto senti. Un Napoli che l'ha meritata! Siamo grandi! Siamo forti, abbiamo sconfitto anche Sarri, è stata una partita bellissima. Avete temuto qualcosa? Sì, sì. Motorino in tre, naturalmente. Il tifo è alle stelle e ovviamente in questo momento sono saltati anche le norme di sicurezza. E quindi io chiuderei questo momento. Meglio anche per la tua voce, che, amico inviato Rai, non c'era tanta voce là. Promo 24. Riprogettare i processi, digitalizzare la supply chain o adottare sistemi di business intelligence prima dell'emergenza sanitaria non sembrava urgente, ma ora è vincolante per il futuro delle aziende. Sorma, gruppo Centropaghe, che da 40 anni informatizza aziende manifatturiere multisettore e internazionali, realizza progetti di innovazione e offre soluzioni custom di MES, logistica di magazzino, Salesforce Automation, fatturazione elettronica, business intelligence e analytics. Il software SI5 ERP di Sorma coniuga funzionalità potenti con la tecnologia e la digitalizzazione. Con la nuova versione web del software SI5 ERP di Sorma, gruppo Centropaghe, i dati sono accessibili da remoto H24. Visita sorma.com, ERP e Digitech per aziende sfidanti. La zanzara. Il culo! Zanzarosi, è giornata difficile, eh? Chiamate l'824-0024. O whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Troppo bello! Vivo a Milano! Sono felicissimo di essere qui per festeggiarlo qui! Forza Napoli! È più forte del Covid! Un po' di cose belle e poi, insomma, è sempre un piacere per il Napoli contro la Juve e pure contro il Covid. Balordo e mediocre. Ma tu cazzo mo! Tutto mo! Caiu la fiatagne, la renegade, da chi c'è stramorto, Cristiano Ronaldo, ti bala a bucchire la mamma che sta in Argentina e tutti i tifosi giuventi che c'è stramorto. Allora ragazzi, c'è Salvini che certamente non si è risparmiato bagni di folla ultimamente, no? Il quale però critica De Luca. Dice: mi chiedo dove fosse De Luca, quello con lanciafiamme. Esatto. Ora è vero, De Luca non dice una parola in queste ore, il governatore della Campania. Io sono a favore dei bagni di folla. Assolutamente no? Sì, bagni di folla, legittimi, non c'è più un cazzo. Dunque, legittimi bagni di folla. Però non c'è più niente. Non c'è niente. In Campania non c'è nulla, dai, non rompere i coglioni. In Campania non c'è niente. Ma ormai le regioni non esiste più. Un territorio chiuso, è sì, tutto è vero, aperto. Ma in Campania non c'è nulla, non vuol ci sono non avete capito nulla del virus. No, dai, non rompere il cazzo. Comunque, tenete la registrazione, perché qualora dovesse ripartire. Io chiederò formalmente a questa radio di mandare in loop a tutte le ore del giorno e della notte questo tuo messaggio. Già hai devastato le imprese una volta, già lo hai fatto una volta. Mi domando dov'era il signor De Luca, quello che era pronto a usare i bazooka contro i milanesi e contro gli italiani che andavano in giro per Napoli e per la Campania. Chi è? Ma lì glielo chiedo senza, diciamo, sarà, chi è la responsabilità? È la polizia municipale, quindi il sindaco. Quale polizia municipale? Ci sono migliaia e migliaia di persone che vanno a festeggiare, ma chi la cazzo si oppone? Ma che roba è? Ma dove vivete? In che mondo vivete? Vivete nel mondo dell'irrealtà? O tieni le persone barricate in casa, oppure le persone davanti a un evento sportivo importante. Su, ma non rompere il cazzo, falli esultare, falli, si capisce, falli che vivere, non c'è nessun senso di responsabilità. Ma non dire puttanate. Questo si capisce. Dai, su, non abbiamo in Campania alcun senso civico per noi e per gli altri. Sei vergognoso. Allora, intanto, sempre collegato alla finale di Coppa Italia di ieri, succede, ragazzi, l'incredibile, perché va bene, uno si può sbagliare a fare l'inno. Io non giudico nemmeno la scelta di questo Sergio Silvestre, che non conoscevo, è stato da amici, un cantante di colore, ma chi se ne frega. Diciamo che l'inno italiano va cantato in maniera normale, secondo me, però va bene, va benissimo. Cioè, non è che uno non italiano, questo è americano, non può cantare l'inno italiano durante la finale di Coppa Italia. Non capisco la scelta così, diciamo, poi si è messo a fare il pugno chiuso, ma dove cazzo stiamo? Nell'epoca della rivoluzione, a Messico 68, ma dove cazzo siamo? Il pugno chiuso facendo slogan antirazzisti, ma che roba è? Ma chi se ne frega durante la finale di Coppa Italia il pugno chiuso? Ma che roba è? Dai, su, ma è una follia. Se si può far passare messaggi positivi, il pugno chiuso, il pugno chiuso non l'ha capito nessuno, perché libertà, una roba di vecchia del 68, di democrazia. Dai, su, non rompere il cazzo, in Italia non c'è nulla di tutto ciò, ma chi se ne frega di uno che durante la finale di Coppa Italia fa il pugno chiuso alla fine dell'inno? In più si sbaglia a fare l'inno, si inceppa. Risentiamo un po' il momento dell'inceppamento di questo Silvestre. Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta dell'elmo di Scipio, si cita la testa, dov'è la vittoria, le porga la chioma, chi scada di Roma. Allora, io dico una cosa, ci sono grandi eventi nel mondo per esempio dello sport americano, non c'è una volta, non è successo una cazzo di volta, perché tu fai 48.000 prove, sei lì che ti rompi la schiena, non c'è una volta in cui una persona, per carità, poi può succedere, può succedere a tutti, però amico mio, però... Qualcuno ha detto a ridarceli sordi a Silvestre, a ridarceli quattrini, forse è esagerato, vabbè. Però non ti puoi inceppare, dici mi sono emozionato, ma scusa, ma non c'era nessuno allo stadio? Lo stadio era vuoto e mi sono emozionato, allora quando per ci sono 100... Ma dai, su! Non ho mai stato così emozionato, neanche quando sono stato ad Amici a Sanremo. È stata una cosa incredibile vedere un stadio così vuoto e sentire questo eco fortissimo. Guarda, è stato incredibile che mi sono bloccato, perché mi veniva una tristezza molto forte. Ma tu ci credi? Tu ci credi a questa cosa qua, che uno si blocca, al limite uno si deprime, ma perché può non c'è essere, gente. Ma non so, non è uno. Può essere. Comunque, ragazzi, durante l'inno in una partita importante uno non si blocca, fai 40 milioni di prove, eccetera, e non è mai successo in nessuna manifestazione sportiva, tranne non so in quale paese, che uno si blocchi durante l'inno nazionale. Impossibile, impossibile. Forse non era il suo inno, dunque non era abituato, questa è la ecco, realtà. Ecco, quello certo. Dai, su. Allora, ti voglio fare sentire, non perché sono fissato, ieri il capo delle Sardine, il solito Santuzzo, San Minchia, Sartori, eccetera. Santori. Lo inviterai anche tu, non ti preoccupare, la settimana prossima, lo inviterai anche tu. Noi saremo un contenitore liquido. Ma tu ti rendi conto della supercazzola? Noi saremo un contenitore liquido. Bauman, citazione ma di Bauman, Bauman Simon di sto Bauman. Cazzo, ma parla come magna, noi uno saremo un contenitore liquido, ma non rompere i coglioni, morto, dai, purtroppo, ma che c'entra contenitore liquido? Ma chi se lo ricorda? Ma vuol dire in grado di, dai, intercettare interessi diversi, questo vuol dire. Quindi noi in questo momento siamo ripartiti da 12 punti del manifesto per dire ripartiamo da qua, è un contenitore, ma è un contenitore liquido, perché è un contenitore che non sarà solo Mattia Santoro a riempire, non sarà solo Jasmine Cristallo. Jasmine Cristallo, quella che voleva le statue per le donne, o per la donna, non so chi, per le donne violentate, oltre che per Montanelli, incredibile. Non ho fatto politica per rimorchiare, ma amico mio, sarebbe stato meglio forse, lo sai? Non ho fatto politica per rimorchiare, ma va bene, invece avresti rimorchiato, sarebbe stato la grande. cioè sarebbe andato alla grande, sarebbe stato ottimo, almeno un risultato l'avresti ottenuto. Cioè, a parte che non è vero, non ho fatto politica rimorchiata, sicuramente hai rimorchiato grazie alla politica. Io vengo dall'alberghiero, da un alberghiero di Castel San Pietro, quindi se avessi voluto rimorchiare di sicuro la politica non era la chiave giusta per rimorchiare. Claudio da Pisa, avanti ragazzi, forza, iniziamo, dai, forza, dai, forza. Dimmi, dimmi Claudio, dimmi. Senti? Più o meno ti sento, dai, dimmi. Va bene. No, non sento un cazzo, Claudio, ti devi fermare, togliere tutto quello che hai, ragazzi, non mi fate ripetere. No, non c'è niente, sono alla finestra, tutto spento. Guarda, non sento un cazzo, Lara da Milano, dai, Lara da Milano, forza. Richiamate Claudio. Dimmi, Lara, dimmi. Ciao, allora, volevo dare assolutamente ragione a un parente. E per la questione dei festeggiamenti del Napoli, ma ragazzi, ma di che parlate? Beh, è normale, no, non è aspetta, hanno fatto bene, hanno fatto fondo. Bene, hanno fatto no, bene. Non hanno fatto assolutamente bene. Ma tu che cosa avresti fatto? Vince la tua squadra, esci per strada, ci dire? Sono zero contagi. Ma tu ti ricordi cosa è successo in questi ultimi due mesi o no? Ma cosa cioè, vuol dire? Si ma lo sai quali sono le cifre della Campania? Uno oggi non vuol dire nulla, un nuovo contagio, 50 ricoverati, 2 in terapia intensiva, zero decessi, non rompete le i coglioni. Regioni aperte, scusa, le regioni scusa. Aperte. Dimmi Lara, dimmi, dimmi, dimmi. Scusa, allora, questo virus ci ha dimostrato che il contagio può partire da un giorno all'altro. Certo. Ma non è più così. Te l'hanno spiegato i vari quelli che hanno visto i pazienti, te l'hanno spiegato che non è più ripartito. Non è più fenomeno, perché non me ne frega un cazzo di Israele. Guarda perché l'Italia, chi se ne ripartito. Frega, non sappiamo un cazzo dei contagiati, aspetta. Chi sono e quanti sono. Aspetta cosa? Qui stiamo a vedremo. Sentire quelli che hanno vedremo. Visto i morti staremo veri, a non vedere. Le cifre del cazzo. Staremo non a c'è vedere. Più un malato non grave. C'è rispetto Menagramo per quei maledetto. Morti di Bergamo. Menagramo maledetto, porta sfiga, fermi tutti. Non c'è rispetto. Il segnale orario vi è offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. C'è chi la sceglie per il suo stile, chi per la tecnologia. Io la scelgo per avere tutto. Ripartiamo dall'Italia e dai prodotti italiani. Con Drive Forward, nuova gamma Alfa Romeo Giulietta da 179 euro al mese. Zero anticipo e zero rate nel 2020. Da gennaio 18 rate da 179 euro, poi 72 rate da 288 euro. TAN 6,75, TAI GOT 44. Iniziativa valida fino al 30 giugno. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Info su alfaromeo.it. La Zanzara. Ciao, sono Nicole da Verona. E adoro farmi eculare sui piedini. I love my radio. Devo vedere un po', devo cercare di avvisare qualcuno, dire per cortesia, chiudete le assi merdose. Togliere un po' di merda dall'Italia, chiudono sta trasmissione del cazzo. Tu e quell'altro frocioli, quel nano del cazzo. Questi di mo che fanno la musica rap, trap, trup, trap, una razza aperta, che cazzo ti fa un mare di cocci, prima era musica, era melodia, musica rap, trap, trup, trap, rap, 2020, rap, anno bisesto, anno smesso. Giro in ma, gira a caso, gira cose, Ruben Sosa, bruciamo fiori, non rose cose, mamma stai tranquilla, mamma sosa, perda fre, nuova a me, sogni me. E che cos'è? Nell'età, fazzole. Mai pia, fai una se, blow job, nuova squad, ma una gio, ma una gio. State ascoltando musica giovane. La Zanzara. Mi scappè, ma stai shine, fai una se, taglia le, si roppia e passa il fragile il ma. Cinque col fra che già giroppia. Tipo quel tipo di tipa fra. Tipo col tipo di tipa fra. Ti pario contra fra, tipo quel tipo che è il tipo di tipo, la tipa del tipo fra. Prima la musica era melodia, passione. Sì, Politano, sul secondo palo il colpo. No! Del 1-0, un altro palo, il cross, Koulibaly sul fondo. E come l'ha fatto a chiedere la palla? Ha sforato il no! Juventus è merda, stagionale, sparà. Dai! Ti fermo! Uno dei migliori che Get me so insecure but now that's over. Cristiano Ronaldo c'ha da fo buchi, c'ha da fo buchi, c'ha da fo buchi. Che voglia di cazzo, mamma mia. Ciao Carlo, sono Enzo da Via Marina. Carissimo Enzo, buonasera, forza Napoli. Sempre Carlo, non c'è accire nessuno. Ad alta voce, amico mio, Carlo, non c'è accire nessuno. Io sto abito dove sta il parcheggio Brin, non si capisce niente. C'è, raccontami. Sto fuori al parcheggio Brin, fuochi d'artificio, caroselli con macchine, però sempre in modo onesto e corretto. Bra, siamo noi grandi. Bra. Napoletani, ragazzi, onesto e corretto. 5.000 persone in piazza, no, quello e sì. Il sindaco De Magistris che li difende, no, ma di cosa stiamo parlando? Onesto e corretto, quello sì, però ma di diciamo, che parliamo? Furti, gente ferita, ma stare, ma spari in un area, assembramento scippi, mostruoso, ma un assembramento mostruoso, ma basta, libertà, libertà, ma quale libertà? Vuoi ribloccare il paese, segnalo, di nuovo? Ti vuoi segnalo, vabbè, il paese intervenga l'esercito, intervenga De Luca che no, dice, ma intervenga la Confindustria a mandarti via, no, non l'esercito, sciagurato che non sia altro, distruttore di aziende. Il lanciafiamme si è limitato, si è fermato alle feste di laurea, per caso il lanciafiamme sì, di De Luca questo si è fermato alle feste di laurea. Perché il governatore del mondo, che pure adoro, amo e lo amerò sempre, lo adorerò sempre e sono pronto addirittura a prostrarmi al suo potere e alla sua divinazione, alla sua essere magnifico. Caro De Luca, però, il tuo oggi non dici nulla perché chiaramente andare contro i tifosi del Napoli non è una buona mossa dal punto di vista elettorale. Perché si vota, ragazzi, in Campania. Ti è arrivato, in tutto questo, posso dirti, ti è arrivato un libro. Ti è arrivato un libro qui a Roma, non mi è arrivato niente. No, qui a Milano ti è arrivato. Ma io a Milano non vengo. Ma ho capito, non vieni come il libro. Sai, io a Milano non vengo. Ok, Milano. Tu sei un coglione. A Milano non vengo io. Sei un criminale. La Lombardia ti dovrebbe, la Lombardia ti dovrebbe denunziare. A Milano io non la vengo. La Lombardia Milano. Ti deve denunziare. Io rimango la Lombardia qua, ti Roma, dovrebbe denunciare. A Roma. Vabbè. Ma ti è arrivato un libro comunque a Roma, nella redazione qui, nella sede milanese, ti è arrivato un libro. Quando? Che libro è? Quando? Oggi ti è arrivato un libro. Mimmo la Stella, ti giuro è per te anche. E tu perché l'hai aperto, scusa? No, l'ho aperto perché c'era scritto per Cruciani e Parenzo. Ti no, ma scusa, hai aperto la mia posta, vedi, sì, denuncio al comitato di redazione. Sì. Mimmo, ma io ti denuncio, aspetta, al direttore, ma come Mimmo ti permetti? Mimmo la Stella, la scalda camionisti, a colloquio con Morena Capoccia. Ma non mi interessa. La Troia di Spoleto. Ma è un libro che non mi guarda, posso dirti, tientelo. Allora, tientelo pure. Posso dirti una cosa, agli amici della Zanzara, Cruciani e Parenzo, in particolare a Parenzo, così ha scritto, ha fatto una dedica, un caldo pompino a voi, Morena ma Capoccia. Ma non mi interessa niente sta roba a me. Ma io non so né chi sia la signora di Spoleto, non voglio nulla da questa e in ma più scusa, il suo libro rifiuti? Non mi interessa in alcun modo. Posso dirti che non mi interessa? Ma scusa, non mi interessa. Ti non ha interessa. Dedicato agli amici della Zanzara, Cruciani e Parenzo in particolare. Io voglio leggere il dossier del presidente di Confindustria Parenzo, sul governo, quello voglio leggere solo quello. Ti non posso, mi interessa. Ti posso, ma posso dirti che ti non mi interessa la signora di Spoleto? Un passaggio, no, ti posso leggere un passaggio? No, non lo voglio. Non quali voglio sono saperlo. Le tue specialità nel sesso? Non lo so. Senza dubbio il sesso anale. Sempre ci tengo a precisare con vanto che sono una delle poche, se non l'unica professionista pornografica italiana che riesce senza problemi e fatica a farsi praticare una doppia penetrazione. Ma non me ne frega niente, ti posso dire che non mi interessa nulla, ossia, di quello che fa questa signora. Ossia, due piselli nel culo, ma abbiamo, nello vabbè, stesso ma momento. Insomma, posso dirti... Non... Te l'ha dedicato, eccolo qua, c'ho anche David non, Parenzo non con tanto voglio. Amore. Morena Capoccia, la Troia di Spoleto, ecco qua la foto. Ecco qua la foto a David Parenzo, ragazzi, è così la storia. È inutile che... Te lo posso mandare alla 7? Te lo posso mandare alla 7, David? Guai a te. Guai a te se quel libro entra nella struttura della rete del dottor Cairo. Guai Ermanno a te. Da Massa. Chi è adesso? Cos'è sto? Lei mi ha ridotto sul lastrico, Menagramo. Serata, sparisca! Menagramo. Prima che le licenzi, Menagramo d'un Menagramo. Questo sei tu. Menagramo sei del tu. Cazzo, tu. Sei tu. Maledetto col Covid. Manno da Massa Carrara. Menagramo d'un Menagramo. Vai a fare i festeggiamenti in piazza. Vai. Vincesse la mia squadra, Andrea. Hanno fatto benissimo i tifosi del Napoli. Benissimo. Bravo, irresponsabile. Ermanno. Guarda cosa accadde con la partita dell'Atalanta. 4 mesi fa, non rompere il cazzo. Ermanno, dimmi, dai. Ciao, ci sono. No, chiamavo per il discorso della partita dei tifosi del Napoli. No, possono fare quello che vogliono. Quello che mi dispiace è che in tutta Europa poi pensano che gli italiani sono questo. E questo non è giusto, secondo me. perché gli italiani non sono questo. Ma, aspetta, ma che cosa? Per che cosa? Per i furti? Per gli spari? Per i feriti? Gli scippi? Come Parenzo continua a dire che è tutto normale, che queste cose qua. No, questo non è normale. Ma detto che non è normale niente. No, l'hai detto in tante puntate invece, che è tutto normale, parcheggiatori abusivi, passi con rotto. Sì, tu l'hai detto mai che è normale. Sì, l'hai detto, tutto quando, normale, hai detto che è tutto normale. Quando mette la musichetta, no, non è vero, invece è tutto vero. Come che le cazzate che dice De Luca sugli ospedali che hanno solo che delle formiche dentro e continuano l'eccellenza. Ma eccellenza di cosa? Perché il virus non ha avuto fortuna che non è andato lì, se no chiudevano. Io sono un infermiere che ho lavorato nel Covid, quindi... tra l'altro, quindi non diciamo puttanate. Sì, ma Ermanno, allora, io non credo che la questione del contagio riparta con quello che è successo a Napoli, non beh, diciamo cazzate. No, come è partito? Civiltà, ma che civiltà, ragazzi, hanno insultato perché ha vinto la loro... Maghreb. Ma quale il Maghreb? 5.000 persone. Sì, ma cosa il Maghreb? Esattamente tutto in linea, hanno approfittato del discorso che non c'è il pubblico, perché quello dell'Ino sarebbe stato fischiato da tutto lo stadio, hanno messo un coglione... straniero a cantare lì. Ma questo è un altro discorso, di però. Questo non c'è straniero. Questa è un'altra roba. Ma parassitario. Allora, hanno messo uno perché volevano dare, volevano però fare. Però capisci che quelle immagini sono un insulto e una buffonata. Tu puoi cazzate, pure pensare vattene, che sia tutta una sciocchezza, ma se c'è una regola, la regola va rispettata. Dai, Massimo, e sono provincia di una, un insulto alle persone che hanno dato la vita per il Covid, gli infermieri, i lavoratori. Sì, perché quelli si sono distanziati e questi fanno la festa. Ma scusa, ma che dici? Ma cosa dici? Ma la gente no, non si distanzia è una più. Cosa incredibile. La gente non si distanzia più. A me risulta che nessuno Massimo. Purtroppo ancora va al cinema, Pronto. Nessuno va a fare i cortei Massimo, e manifestazioni. Salerno, vai. Dimmi. Cruciami. Tutti giriamo con la mascherina. Dimmi. Senti, volevo rivolgermi a quella sottospecie di pus che tieni a fianco. Sì, è qui. Con chi voglio va a parlare chiedere, questo gentile signore? Voglio chiedere come ti permette chi è questo di notaio? Pensare. Chi è questo notaio io che parla? Chi sono è questo? L'ultima persona di questo mondo, ma sicuramente ma non sei l'ultimo, sei un maleducato. Chi sei? Chi sei? Come ti permette di dire che i juventini pensano che i napoletani devono morire? Ma lei? No, quelli juventini, Cruciani, no i juventini. Lei che lei, no, lei ha detto juventini. Lei lo, è lo juventino Cruciani, quello dice. Per gli immigrati morti, così se la può prendere con Salvini. Ma che ne so, è un lei coglione. Francesco da Bergamo, zitto. Francesco da Bergamo, io non ho ma capito sta polemica. Francesco perché da Bergamo. Chiamano solo disadattati questa no, chiama gente normalissima. Francesco no, no, no, no, no, no, no. Questo non lo, è no. La fotografia questo, dell'Italia. Questo non, Francesco posso, da Bergamo. Questo non te lo posso far passare. Dimmi, Francesco, dimmi. Che qui, no, in questa fascia, in questa fascia oraria, no, scusi, nano, nano, zitto, no, no, scusi, nano, nano, sì, nano può essere raccomandato, no, nano. Nano può anche essere nemmeno. Sulle altre due cose mi permetto di sulle altre due cose mi permetto di quelle là col professore da Bergamo torniamo tra un attimo fermo Francesco sì. Chi è questo qua? Fineco è tempo di investire con noi vi presento state ascoltando un programma offerto da Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it. La zanzara. Avete un po' paura, tutti sono un po' non vicini. Ce n'è Covid, non ce n'è Covid. Menagramo d'un menagramo. Ma Parenzo, parli sempre di giustizia di qua, giustizia di là, una volta che la giustizia veramente ci pensa e gli dà 30 anni a quella Rom, non ti va bene? Ma la la! Grazie ancora professor Cacciari, voi restate lì perché tra poco ci raggiunge Iva Zanicchi e parleremo, abbiamo delle immagini incredibili di immigrazione, restate lì. Ma io mi chiedo, ma come mai il professor Cacciari va lì, scusa? Ma anche certo, va lì. E poi lui dice, ma scusa, Cacciari passa va lì da Cacciari perché vuole, vuole toccare il popolo, ma è normale, ma alto e basso, popolo, amico dai. Mio, alto e basso. Abbiamo Cacciari e Iva Zanicchi. Ma certo, alto e basso, tu fai vabbè. Solo alto, farai solo vabbè. Alto. Ma farai. Che alto? Io solo alto farai, discussioni, filosofi. Io voglio solo intellettuali. Ma solo. Vai a cagare, io spero, solo. Ti giuro, spero che tu fai il 3%. Spero che tu faccia, no, non è vero, non è vero, sto scherzando. Ma mi tocco a carne, ma anche se sarà così... il 3% voglio fare solo intellettuali, solo grandissimi. Potresti invitare Ludovico Jamon. Ah no, scusa, è morto. Chi? Oh, Jamon. Jamon, poveretto, è morto. Jamon. La gente non ce la fa più. Noi parliamo, ma cominceranno cose molto gravi in questo paese se non ci si mette rimedio. Questi giovani, che poverini, fanno anche tenerezza, forse, non lo so. Qualcuno questi giovani africani vengono qua, lo vedi che non hanno rispetto, sono prepotenti, non vogliono. Cosa fanno? Vanno in città, vanno a spacciare, se possono stuprano. Perché sono non tutti, chiaramente. Non tutti, però Mario, sanno che in questo paese non gli succederà nulla, o quasi nulla. Ma cos'è sta fiera del qualunquismo? Che cos'è? Allora, eravamo con Francesco da Bergamo, fermi tutti, con Francesco da Bergamo. Allora, devo essere d'accordo stavolta col furbetto raccomandato. Anche Finocchio hai detto, anche Finocchio hai detto. No, anzi, sì, culattone gli ha detto, culattone nano raccomandato, il furbetto lo sa bene ma non lo dice. Culattone nano raccomandato, sì, però guarda, nano può darsi perché poi, insomma, sai, 1,70 e qualcosa. Ma che 1,70? Che cazzo dici? 1,70? Sì, ma quando? Con le zeppe. Ma che cazzo dici? Ma siamo mai visti di persone. Ma non dire stronzate. Ma siamo mai visti di persone con questo poveretto. Ti avrei vomitato in testa. Allora, culattone raccomandato, però devo dirti no, cioè culattone no. Spiegaglielo tu. Francesco, dimmi allora. Dai, allora? Sì, ma che volevi dire? Qua io leggo Bergamaschi la Dimmi. Allora, no, volevo dirti una cosa, devo dare ragione a Feltri per una volta, anche a Parenzo. In che senso? Vedo che volevi intervenire sulla zozzeria dei napoletani, che cosa? Sì, sono dei macachi inferiori, sono degli scimmie urlatrici, poverini, non capiscono. Ma perché? Non scusa, non ho capito, perché hanno insultato. Io mi auguro che... Possiamo dare il numero di questo di Bergamo? Facciamo così, diamo il numero di questo qua, da Bergamo. A Feltri direttamente lo diamo. No, diamoglielo ai club del Napoli. Ai club del Napoli, diamo il numero di cellulare di questo qui ai tifosi club del Napoli. Non ho capito, cosa vuol dire scimmie urlatrici? Non diamo il tuo cosa numero. Significa scimmie urlatrici? Tu ti ricordi quando noi tarantini siamo passati agli ottavi? Non c'era una mosca che volava. Il rispetto, sì, ma quale rispetto? Che è la tifoseria più violenta d'Italia, dai, ma non dire stronzate. L'Atalanta niente, è una delle filosofie, è una delle tifoserie tra le più violente d'Italia. Ma quale ospedale ignorante, razzista? Una delle più violente d'Italia, le nostre. Una delle più violente d'Italia. Una delle più violente d'Italia. Violenti, violenti, atalantini, violenti, altro che Napoli. Scimmie urlatrici, però hai detto. Ma non l'hai visto ieri con tuo Ronzo? Ma delle scimmie. Ma perché con l'Atalanta cosa sono? Cresciuti a Buckingham Palace, quelli dell'Atalanta, secondo te? Noi abbiamo passato. Potta. Ma cosa sporti, pagliacci? Ridicolo somaro. Allora, le scene che si sono viste ieri a Napoli sono di esultanza. Poi, purtroppo, la tradizione locale prevede tre in motorino, furti del motorino davanti a tutti. Questo è un delirio. Spari, rapine, eccetera. Questa è la specialità locale. Non è che i tifosi dell'Atalanta siano dei moderati, non mi risulta. No, non siete iscritti al circolo per la pace. Siete tra i più violenti d'Italia. Ma cosa devi recare il culo? Siete tra la tifoseria più violenta. Ma non fai nulla del calcio in generale, quindi figurati. Neanche i napoletani la guarderanno quella merda sulla 7 che fai. Ma che questo bianco dietro. Mi auguro che un violento coglione come questo non guardi. Certo, questo mi fa piacere. Ciò nonostante, i tifosi dell'Atalanta sono tra i più violenti d'Italia. Quindi ciao Crux, è un grande ciao. Pietro da Vicenza, vedo che scalda molto Napoli di nuovo al centro. Ma mi fa piacere che i violenti tifosi ti appoggino. Posso però, dirti? No, ma io guardo le opinioni, Francesco non so chi sia, si chiama Francesco da Bergamo per me, e ha sbagliato perché secondo me le scene di esultanza vanno distinte dalla criminalità. Ma che opinioni ha avuto? Dalla criminalità. Pietro da Vicenza, vai. No, però io su questa vicenda qua vi dico in maniera molto semplice: l'esultanza, cioè, hanno fatto benissimo. Non sono, come ha detto l'OMS, che per me non conta più un cazzo e va abolita, e quelli vanno licenziati in tronco, i dirigenti dell'OMS, vanno mandati a casa. È la irresponsabilità. L'OMS, che parla di non so che cosa, cos'è che ha detto quello all'inizio? Cos'è che ha detto? Sciagurati sono loro. Quelli dell'OMS, ma non quindi, i napoletani, scusa, che hanno risultato. Tutto finito, perché chiedessero si continua scusa a andare ai in giro napoletani. Con le mascherine? Perché si continua a fare attenzione? No, a Napoli tutto non è finito? C'è nessun obbligo. Pietro, dimmi. Eccomi qua. Allora, le regioni sono aperte. Dimmi. Il paese allora, è uno solo, non è due, tanto, non sono due paesi. Lascia parlare un attimo, Parenzo. Io sì, però metti Pietro, ho capito, però devi chiami da Vicenza, però devi chiamare bene col telefono che funziona bene. Sono in autostrada, ho il telefono all'orecchio e se altro non posso fare. Dimmi, dai, forza, dimmi, dai. Sarò breve. Allora, non diciamo cazzate al solito, che vi piace fare i controcorrenti. Allora, le scene di ieri sera, io vi faccio questo esempio, ma fammi finire, Gianni, ascolta. Dimmi, però. Pietro, non si sente un cazzo, non si sente un cazzo. Sandro da Firenze, dai, è inutile, stai in autostrada, ti devi fermare, oppure devi togliere il telefono da non so che cazzo hai per parlare bene, altrimenti vai a fare in culo. Sandro, dimmi. Sì, ciao, Cruz. Dimmi. Senti, no, una cosa, io non capisco questa tua, cioè questa voglia di dire no, niente, non c'è più niente, basta, tutto è bravo. Io sono un ragazzo, no, anche cioè, ragazzi, molto pericoloso il messaggio. No, Sandro. Io ho perso un collega, io sono 60 anni. Ma cosa c'entra avere perso le persone tre mesi fa? Cosa c'entra? C'entra e come? Perché il pericolo c'è ancora. Non c'è nessun pericolo adesso, buffoni. Aspetta. Ma questo gli è morto pure il parente. Ma cosa c'entra che gli è morto il parente? Morto il parente tre mesi fa, giustamente sono vicino a Sandro. Aspetta un attimo, 10 anni, io ho 10 anni più di te e 20 più di Parenzo. Ti dico, te guarda i dati, non mettere la testa. Ragazzi, i dati che interessanti sono solo quelli dei ricoverati. I contagi sono una puttanata, sono una stronzata. Fatelo spiegare, sono piccole tracce di Covid spesso, dove non c'è un cazzo di contagioso. Ma come no? Ma allora vai a sentire Brusa. No, sei il leccaculo di Brusaferro. Ma figurati. Mi auguro che tu con i tuoi messaggi non crei casino ulteriormente, perché se dovesse ripartire il contaggio, uno dei responsabili menagramo sei tu. Di un menagramo, se dovesse partire maledetto. Sei tu, ciao, uno Sandro, dei responsabili, ciao, e l'audio rimarrà. Ciao. Menagramo d'un menagramo. La zanzara. Boris, bianchissimi denti, Boris. Allora ragazzi, facciamo un piccolo riassunto. Nei giorni scorsi abbiamo sentito le minacce che un trapper o presunto tale che si chiama Baby Sayan ha rivolto a un consigliere regionale campano molto conosciuto, Francesco Borrelli, uno che denuncia ingiustizie, denuncia i criminali, denuncia la persona camorra, molto tosta. Eccetera. Persona tosta, persona che fa il suo mestiere come dovrebbero fare tutti i politici che invece di solito non fanno un cazzo. Le minacce erano concentrate in queste parole qua, sentite. Vengo a Napoli, te lo giuro che minchia, vengo là, ti do 4-5 coltellate, capito? Bang! Fiero di non avere mai lavorato, guarda qua, mai lavorato, solo ciocchi, hai capito? Pezzo di merda, le spie come te ce le facciamo, pure a Napoli tutti i clan ti vogliono fare, fai schifo. Sto tutto fatto, hai capito? Me ne è fotto un cazzo, hai capito? Zero lavoro, snitch di merda. Devi fare una brutta morte come Saviano sotto scorta. Guarda qua, ti tiro fuori il cazzo, posti questo. Pezzo di merda, sei uno snitch del cazzo. Sto tutto fatto. Oi bro, oh, fanculo lavoro, fanculo Borrelli, spia come Brumotti. Bam, bam. Sei un infame, sei uno snitch. Hai capito? Ti fanno, Borrelli. Borrelli ti fanno, hai capito? Mi puoi solo succhiare il dick. Te, tua moglie, tua figlia, fate schifo. Sei una spia, Borrelli, hai fatto la tua scelta e prima o poi ti fanno. Ah, infame! Te lo giuro che quando vengo, te lo giuro, come scendo in stazione a Napoli Centrale, se sto venendo da te c'è mezza Napoli che vuole farti. Te la faccio pagare che hai postato la mia faccia, pezzo di merda. Allora, queste sono le minacce contenute in un video e in alcuni messaggi pubblicati dallo stesso Borrelli. Poi ci sono altri decine, pare centinaia di messaggi inviati allo stesso Borrelli di minaccia da parte di questo presunto trapper Baby Sayan che vuole dare le coltellate. Addirittura in uno dice che vuole buttare l'acido addosso a Borrelli, si augura la morte. Avete sentito tutto. E l'altro giorno l'abbiamo sentito, ha confermato praticamente ogni tipo di nefandezza. Guarda, sinceramente io, tu che? Detto proprio così, odio veramente le spie. Riguardo la cosa dell'acido, ho esagerato. Ma quelle sono minacce gravi. Ok, ho capito, sì, con lui ce l'hanno tanti. Okay. E ce l'ho anch'io perché è una spia. Senti, che ti devo dire? Quella è una spia, mi sta sul cazzo. E dunque non gli chiedi scusa. Come tutte le altre spie vanno fatte fuori, vanno eliminate le altre. Beh, meglio che spariscono dalla circolazione. Questo è il messaggio che puoi dare. No, di queste cose. Di queste cose preferisco che non parlare. Ah, non parlare. Adesso il trapper se la fa sotto. Mi risulta che il signor Baby Sayan abbia mandato altri messaggi a Borrelli, rivolti anche a noi, Parenzo. Anzi, pure. In particolare a me, tu ti sei salvato in questo caso. Senti, meno senti, male. Senti. Oh, Borrelli, non avete capito un cazzo, né tu né Radio Cruciani. Quando mi ha chiamato per farmi l'intervista, me lo stavo facendo succhiare da una bella ragazza colombiana. E c'è il filmato della diretta che adesso lo manderò. Hai capito? Quella non si staccava e io non riuscivo a mettere due parole in croce. Non so se mi capisci o forse tu lo prendi solo nel culo. Adesso io non ho ancora cercato il numero della redazione, ma adesso ci penso io a voi. Cerca, cerca. Hai capito? Io sono alto un metro un cazzo, ma vi mangio a voi, ma te lo dico mangi. Io. Voi siete colti, c'avete conoscenze, c'avete tutto. Io da solo vi mangio a tutti quanti voi. Mi sembra sia il caso di richiamare questo Sayan. Faremo anche, se ci riusciamo, facciamo anche una sorpresina a questo Sayan, caro Parenzo. Ma non te la fare sotto, devi andare all'attacco con questi criminali. Ma quale vai sotto? All'attacco, ma non te la fare sotto pure tu. Pronto? Oh, allora siamo qui, sono Cruciani, come andiamo? Ah, buonasera, buonasera. Bene, andiamo, lei? Qui lavoriamo nel mondo della civiltà. Ieri mi ha chiamato in un momento sbagliatissimo perché io ero durante un rapporto sessuale, ha capito? Sì, ho sentito. Rapporto sessuale, non so con chi, si stava facendo fare che cosa? Un pompino, che cosa? Ero con una ragazza colombiana ero quasi tentato di mandare il video in redazione, ma mi sa tanto che l'ho posto su YouTube, così vedete che non sparo cazzate. Ma scusa, mamma, che me ne frega se tu stavi con quella o non stavi con quella? No, perché il telefono si spostava, lo riprendevo, capito? Ma non è importante, scusami. E quindi non sono riuscito a confrontarmi con lei, con tutti quanti, capito? No, ho capito, amico mio, il problema non è con chi stavi tu, è quello che hai detto, cioè non è il problema, non è con chi stavi in quel momento. Per te una volta è la droga, una volta è la colombiana, non sei mai lucido allora quando rispondi, no, quando parli? Sì, ero lucido, sì, era solo la l'adrenalina, sai, del momento, no? L'adrenalina del rapporto sessuale, diciamo. L'adrenalina del rapporto sessuale. Io voglio capire una cosa. Allora, vogliamo chiedere scusa una volta per tutte al signor Borrelli oppure sei ancora... Ma c'è il signor Borrelli per parlare, il signor Borrelli? No, perché vuoi parlare con Borrelli? Non ho capito. Non lo so. Ecco, a chi lo chiedo scusa? Se lui non c'è, caso volessi chiedere. Ma lei comunque aspetta. Lei è un mezzo criminale, però. Possiamo dire che lei è un mezzo criminale o no? Togliamo il mezzo, dai. Togliamo il mezzo. Nulla. Tu dovresti essere, innanzitutto, per quello che hai detto, dovresti essere denunziato e probabilmente hai parlato di coltellate, acido in faccia, poi dice che ti sei pentito, poi hai parlato di spia, devi morire. L'acido ho esagerato perché so il però le coltellate vanno bene, diciamo, no? Però le coltellate vanno bene, devi morire. Dipende come uno la pensa, capito? Cioè, ma le coltellate non vanno mai bene, le coltellate, no. Amico è mio, una spia come lui. Ma se io lo dico in un testo di una canzone o lo dico una spia ma una spia, no, è uno. Io parlo di coltellate, di omicidi, di rapine in una canzone o parlo in un'intervista. Ma quella in non un è una canzone, è diverso. Una canzone è una canzone. E uno parla direttamente a una persona, a un consigliere regionale, di coltellate, acido, spia, devi morire come Saviano, offese, insulti a parenti, eccetera, eccetera. Poi... Che uno snitch, lo ribadisco al 100%, anche perché comunque ha fatto delle cose proprio che non doveva fare. Ma cosa ha fatto? Scusa, cosa ha fatto? Fa dei servizi che non deve fare. Ancora così i servizi. Che cosa fa? Sulla gente, se non ci fossero i pregiudicati, lui andrebbe a fare qualcos'altro. Ma magari, le no? coltellate, lascia perdere sta follia che stai dicendo, che uno, quello fa il suo mestiere, che denuncia i delinquenti. Ma non fa la spia, chi fa la denuncia non fa la spia, lo Stato è lo Stato, tu sei contro lo Stato. Comunque Borrelli è qui, Borrelli, okay, ma non Borrelli, c'è hai sentito? Nessun, ma aspetta, reato, non c'è niente. Vediamo se non c'è reato. Borrelli, ci sei? Sì, sono qui, ho ascoltato. Vuoi dire qualcosa a questo Baby Sayan? Denuncialo. Che il signore è stato già denunciato diverse volte, perché lui è da molto tempo che fa lo stalker nei miei confronti, visto che manda continuamente messaggi di minacce, di insulti anche nei confronti della mia compagna, di mia madre, di una figlia che non ho. Oltre agli insulti continui e le minacce, ovviamente lui poi ha questa idea che essere per la legalità, denunciare i criminali, non i pregiudicati, i criminali, è una cosa cosa da spia. Io sono orgoglioso di farlo e lo continuerò a fare sempre. E trovo veramente inquietante che probabilmente anche per farsi pubblicità una persona del genere tenda a... Ma è lei che mi ha fatto pubblicità, perché io ho detto la mia, lei poteva benissimo tenersela per lei comunque. Io dell'acido non lo farei mai, hai capito? No, no, quindi, giustamente l'acido o le coltellate me le devo tenere per me, me le deve a parte il fatto che lei, la mia opinione personale, poteva tenersela per lei. Circa 200 messaggi vocali di insulti e minacce. Parlate in troppi. Gli hai mandato? No, 200, e che? Passo la mia giornata il problema è che probabilmente pur di farsi pubblicità il signore mi inonda di messaggi e poi anche di video, di messaggi vocali e anche scritti, di insulti, di minacce di ogni tipo. Io sono veramente stupefatto nei confronti delle forze dell'ordine e della magistratura che non sono ancora intervenute. Comunque vi siete anche divertiti a fare gli scherzi, a postare il mio numero comunque, se vogliamo metterla così. No, poi... io ho fatto una cosa molto semplice, lei mi manda minacce, insulti, minacce di morte, io le ripropongo esattamente col suo numero come lei me le manda in pubblico, come lei fa i suoi video in pubblico. Che cosa pensa? Che noi ci stiamo zitti e abbassiamo la testa rispetto a comportamenti ignobili e criminali? Tu gli hai dato della spia, tu gli hai dato della spia e hai detto che sostanzialmente andrebbe ammazzato. Questo è il punto. Arriviamo al sodo della questione, ma caro Saiano. Tu hai detto coltellate, lascia perdere l'acido che l'hai ritirato, però l'hai detto. L'hai parlato l'ho di. L'ho detto, avevo bevuto. Vabbè, ti eri drogato, dai, su. Quella bevanda, no, drogato. Perché vabbè, ho bevuto alterato, te eri alterato. Ho preso una pastiglia di Xanax che manco lo faccio mai. Vabbè, ho capito. Non è che una. Non è che una... A uno che si droga mi sembra comunque un'altra cosa. Vabbè. Ma droga, insomma, ti hai fatto di qualche cosa. Gli hai detto devi morire. Cioè, tu a questo signore che hai davanti, hai in qualche modo istigato al fatto che qualcuno magari gli dia una coltellata. Ma non sono il primo e non sono l'ultimo, comunque. Cioè, dunque, magari io l'ho fatto in un modo eccessivo. Dunque, lo confermi. Cioè, se accoltellassero domani mattina, se ammazzassero domani mattina, Borrelli, tu saresti contento? Ma stai mettendo parole in bocca, comunque. Ma scusa, gli hai detto che devi morire, gliel'hai detto tu, adesso te la fai sotto, allora. Adesso allora te la fai sotto. Ma deve morire, è una spia. Le spie si meritano quello che fanno, eh. Perché si merita? Ma quale spia? Ma quale spia? Ma questo è ma ti rendi conto come fai? Quanta spia? Gente, le spie gente non sono rovinato. Le persone per bene. Le spie sono un'altra cosa, tu non sai neanche di che cosa parli. Continui a insistere a dire queste idiozie totali. Dopodiché la gente come te che fa video, istiga alla violenza, a uccidere il prossimo, sono un problema serio ed è un problema io, che si deve affrontare. Io sono il primo nel mondo che ha fatto una cosa così, quindi, giusto? Sono il primo nel mondo. Ma io non lo so se sei il primo nel mondo, ma probabilmente no, ma che cosa c'entra? Hai parlato chiaramente di coltellate, cioè, ma io non so se tu ti rendi conto. Ho capito, sì, stiamo parlando da due minuti, ho capito, sì. Ho capito, perché mi sembra che, non hai capito, mi sembra che addirittura dici che se uno è spia si merita anche le coltellate, cioè si merita di finire in un certo modo. Cioè, voglio dire, no, tu bisogna fargli una festa agli infami, bisogna... Ma che festa bisogna fare? Ma lei minaccia. Ma perché gli mandi le minacce? Utilizzare frasi tipo infame, ti accoltello, ti getto l'acido addosso, devo stuprare tua madre, la tua compagna, tua figlia, questo stuprare è. Non questo l'ho mai detto. Ma che mi stupro tua madre? Mi mandano i numeri le fighe un giorno sì un giorno no. Ma mi stupro tua madre, ma cosa stai dicendo? No, il tema sai qual è? Il premio a chi è il primo ad ammazzarmi, ma ti rendi conto? Ma il tema è, caro Piazza, il tema è che questo signore questo signore qua è un trapper. È un trapper molto particolare, una persona anche che nei suoi testi mette grande ma grande violenza. E io sono d'accordo con te che andrebbe perseguito, ovviamente. Che precedenti hai? Scusa, ancora dei no, precedenti, ancora con non dei ho precedenti capito. Penali. Aspetta un attimo. Che precedenti è normale. Cos'è spaccio? Non è normale. Perché cosa? Non è normale. Non è normale, amico mio, non è normale per nulla. Non ho capito. Spaccio, che cos'è? Cioè, violenza, che cazzo hai? Cioè, non ma lo so. Ma cosa c'entra questo con vabbè, con... non lo vuoi dire. Siccome dici che vuoi prendere a coltellate qualcuno, è pericoloso, è già dei precedenti. Senti, mi pare di capire che no. Come non lo vuol dire? No, non vuol dire ma che lo dica sto coniglio. Che lo dica, coniglio, di che precedenti hai. Abbiamo finito? Niente, alla fine quando sei messo di fronte alla realtà delle cose, un po' te la fai sotto, diciamo la verità. No, Saiano. Ma che vi faccio sotto? Non vi faccio niente. Secondo me te la vedrai con la giustizia. Sono cazzi tuoi, ti prendi le tue responsabilità. Dunque, è così la storia, no? La storia è che dell'acido ho esagerato, però fuori. E invece tutto il resto va bene. Le spie mi stanno sul cazzo e non mi tiro indietro. Benissimo. Ciao Saiano. Mandate un po' di messaggi. Arrivederci. Ciao Baby Saiano. Ciao Baby Saiano, questo si firma pure. Ciao Borrelli, grazie. Ciao. Buona serata. Poi una cosa incredibile. La Zanzara. Però ragazzi, questo che dice fanculo l'Italia, fanculo la polizia, ammazzo i carabinieri, mi scopo Giusy Ferreri. Parla di violenza, parla di stupri, parla di pompini, parla di ingoio, parla di troie. Parla di violenza, parla di stupri, parla di pompini, parla di ingoio, parla di troie. Amico mio! Parla di troie. Fanculo l'Italia, fanculo la polizia, ammazzo i carabinieri, mi scopo Giusy Ferreri. Fanculo l'Italia, fanculo la polizia, ammazzo i carabinieri, mi scopo Giusy Ferreri. Amico mio! Mi scopo Giusy Ferreri. Perché la mia commercialista Pina Pitone adesso deve mettere un altro codice IBAN. Il professor Zangrillo continua a dirmi tachipirigna. Chissà oggi cosa ti inventerai per difendere il tuo lenone mangiatore di ciliegie, lurida puttanella. Allora, forse questo è quello giusto, eh? Non so se la pistola è vera, però, senti. Hai vinto, fra. Giuda, Coppa Italia. Beh. Comunque, spari. Cosa spari. Vergognosa. Siccome prima dicevo, sì, mi confrontavo con quel simpatico signore di Bergamo dell'Atalanta, sì. Vorrei aggiungerti questo, un'altra cosa che mi hanno segnalato. Non solo è una delle curve più violente d'Italia, ma sono anche la curva con meno umanità. I tifosi dell'Atalanta portarono neanche una bottiglia d'acqua ai tifosi della Regina, che passarono una notte a Bergamo perché una partita era stata spostata di un giorno e non gli portarono neppure una bottiglia d'acqua. Mi hanno segnalato neppure niente, una bottiglia d'acqua niente. I tuoi amici dell'Atalanta. Ma non sono miei amici, i tuoi amici dell'Atalanta. Io non ho amici. Durante la partita. Stai zitto, non sai niente regina. Di questo coso, di queste cose. Dimmi non sai che niente. Non è vero. Dimostra ma non lo che so, non è ma vero. Ne frega niente. Ah, quando non sai dici non lo so. Allora fermo là. Anzi, quando là. Non allora, vuoi sapere. Qualche persona si è messa a fare telefonate a Napoli perché si è incazzata per gli assembramenti. Ci sono delle persone cosiddette irresponsabili. Beh, certo. Responsabili. Pronto? Sì, buonasera, qua il CAC, il Comitato Civico Anti-Covid. Sono il presidente Alighiero Pandemini. Voi tifosi del Napoli siete degli irresponsabili e degli impossibili. Vi rendete conto? Ieri anche le è cappato un culo con una palavicciuta, la vengono sapere. In quella cosa che non c'è Ronald, che sa ritirare il balbanzio. Senta... Non è merda, sta tutto il guadino. Pronto? Sì, buonasera, qua il Comitato Civico Anti-Covid. Senta, voi tifosi del Napoli, ma non vi vergognate per quello che avete fatto ieri? Chi cazzo sei? Io sono il presidente del Comitato Civico Anti-Covid, l'ho già detto. E voi, tifosi del Napoli, siete irresponsabili. Siete andati in giro a festeggiare tutta la notte. Ah, fantomazzi, mamma, se tu è che la bocchina da sola. Senta, piuttosto... Ma chi sono, frate Felt? Ma va a fichinotto, va strunto. Piuttosto che insultarmi, avete fatto assembramenti senza mascherina. Pronto? Sì, sono di nuovo Pandemini, il presidente del CAC, Comitato Civico Anti-Covid. Perché mi ha sbattuto il telefono in faccia? Voi siete stati degli irresponsabili. Adesso se ci becchiamo di nuovo il coronavirus è colpa vostra. Ma si rende conto? No, ma perché vi siete comportati come irresponsabili? Me lo dica. Senti, tu mi devi fare una cortesia. Non mi devi chiamare più. Io non so tu chi sei. Comunque io sono Pandemini, sono il presidente del Comitato Civico Anti-Covid. Tu hai guardato, tu sei Juventino, un proprio gioco. Non sono Juventino, io sono... Lei si deve vergognare perché adesso ci beccheremo il coronavirus per colpa vostra. Pronto? Senta, voi tifosi napoletani dovreste vergognarvi. Adesso se arriva una seconda ondata di coronavirus è colpa vostra, ci impestate tutti. Sei uno stronzo. aspetti, io sono di Napoli. Allora, caro Parenzo, è con noi una persona, un mio amico che conosco bene, un deputato della Lega che si chiama Daniele Belotti. Buonasera. Ma vai a cagare, vai. Daniele, ciao. Ma Belotti è un tifoso dell'Atalanta, peraltro. Leggero. E quindi ricorderai. A cagare era diretto a me. Quindi quell'episodio dell'acqua te lo ricorderai, quello che mi hanno segnalato della regina. Ma non sai niente di queste cose. No, ma voglio capire, quell'episodio in cui non portaste neanche neppure l'acqua, le mie fonti, neppure. Daniele. Atalanta regina era. Ma chi se ne frega? Nel 2001, sì, certo. Esatto. Vabbè, chi se ne frega? Neppure l'acqua. Neppure l'acqua. Avevano disfatto la palestra dove l'avevano messa. Allora, caro Daniele, la partita era stata rinviata per il maltempo il giorno dopo. Allora, Daniele, hai preso qualche DASPO in vita tua? No. Mai DASPO? No, non l'ha preso. No, non l'ha però preso. Sono stato sotto processo 6 anni. Sì, questo. E poi sei finito giustamente in Parlamento. Perché sotto processo l'avranno assolto però del processo? No, un record italiano, 4 assoluzioni in sede di giudizio preliminare, vedi tu. Allora, comunque, per l'Atalanta. Allora, il problema non è questo, il problema è che tu mi hai scritto una cosa molto interessante. Tu dici, negli stati per i saluti politici è previsto il DASPO. Cioè, se tu fai il braccio teso, se tu fai il saluto romano, diciamo, ti inquadrano e ti individuano, i tifosi ti danno il DASPO. Ci sono stati casi a Verona, a Busto Arsizio, tifosi del a Udine per la partita Italia-Georgia, durante l'inno italiano un gruppo di tifosi ha alzato il braccio a saluto romano, sono stati diffidati. Allora, tu io dici... non condivido la politica negli stadi, lo premetto. Sì, cioè per te non dovrebbero essere... Però tu dici che questo cantante di ieri, Silvestre, che ha storpiato un po' l'inno italiano, eccetera, eccetera, ma non è questa la polemica, per il pugno chiuso che ha fatto, che ricordando quello del 68... Però il pugno chiuso non è un reato, questo è la differenza. È un gesto politico, dunque addirittura tu dici dovrebbe essere diffidato dal questore di Roma, è così? Sì, perché secondo me non è il fatto grave, non è che abbia dimenticato le parole dell'inno, ha fatto una figuraccia, ma ha detto che era emozionato, va bene, prendiamo atto di quello, ma il saluto finale che richiamava probabilmente, bisogna chiedere a lui l'interpretazione autentica, i Black Power. Sì, quello è sicuro. I Black Power sono un movimento politico chiaramente estremista di sinistra, quindi lui ha portato un saluto politico di estremismo, di sinistra in questo caso, all'interno di uno stadio. Sì, ma non è un reato però. Lui dice una cosa chiara: siccome il DASPO prevede se porti, no, non è che è fatto per i saluti romani. Il saluto romano all'interno di uno stadio. Ma non per il saluto romano, perché fai un gesto politico, giusto? Cioè fai una cosa. Se tu fai quella roba lì, dice un richiamo al fascismo, è molto semplice. Ma non per quello. Certo. Comunque non è per quello che anche ti prendi. Anche per il la legge Mancino. Comunque Belotti sostiene questo, che quel gesto là è un gesto di un movimento rivoluzionario, di un movimento estremista. E dunque ha stretto, andando a guardare la legge, dovrebbe essere diffidato dal questore di Roma, giusto? A Roma ti faccio presente, io non frequento la tribuna, io frequento i settori ospiti negli stadi in trasferta. A Roma ti tolgono la maglietta, se tu la maglietta hai una stretta di 10 centimetri del tipo diffidati ovunque, perfino un boccia libero, sai il boccia? Un boccia libero sulla maglietta nel settore ospite all'Olimpico te la fanno togliere, te la sequestrano. Tu dici quel tizio là che fa un gesto politico non autorizzato, non concordato con un gesto politico di un gruppo estremista andrebbe diffidato dagli stadi, diciamo. Sarebbe il primo caso al mondo di diffidato in una partita a porte chiuse, un genio. Ciao Daniele, ciao. Tu dici Parenzo non c'entra non un cazzo, così, non c'entra. Io l'ho parlato però, a dire, non c'entra ho capito niente. Però se tu Belotti mi è anche simpatico, lo conosco da 20 anni, figurati. Sì, però se uno fa quel però è così, ragazzi, dopodiché, è così. Adesso che Belotti poi dica anche l'inno d'Italia, dai loro che peraltro l'inno d'Italia manco lo cantava, insomma, dai, lascia stare, sono mille contraddizioni che non vale la pena neanche nelle quali non vale la pena andare. Chiudiamo la trasmissione, che io stasera ho una cena importante da un avvocato. Andrea da Verona, dai. Stasera una cena molto importante a casa di un avvocato. Andrea da Verona. Chi se ne frega se c'è la cena? Parleremo anche di te. Dobbiamo ricominciare a vivere una vita normale. Sentite qua un attimo, il martedì. Normale è un conto, assembramenti come quello è un altro. Dimmi Andrea, dimmi. Martedì finalmente gli austriaci ci hanno permesso di tornare a trovare i clienti su in Austria, in Germania. Avanti tutta, bravo, fategli vedere quelle immagini. Bravo, esatto. Ascolta chi lavora sulla strada tutto il giorno, ma non come quanti. Ma giustamente, se vuoi andare in Austria, se gli austriaci guardano le immagini di Napoli, col cazzo richiudono le frontiere, vedrai. Adesso ti giuro, io adesso sto tornando a casa dopo due giorni di vita normale, ascolta. Tutti noi vogliamo la vita normale. Ascolta, a parte i camerieri che indossano le mascherine, ma le persone non le indossano più neanche all'interno. Io oggi ho mangiato una pizza in Tirolo. Dove? Ed eravamo in quattro sul tavolo, ci davamo dentro gomitate, tanto eravamo vicini. Ma certo, Andrea, certo. Hanno dai, cominciato su, a vivere. Cioè... Allora, ma questo cosa c'entra poi? Con quegli assalti? Riaprono i bordelli, ma riaprono c'entra i bordelli, quello con 5.000 persone? Ma quella è una festa. Ma aspettate un attimo, il turismo, no, noi abbiamo fatto carte false per non farli andare in Croazia, tramite l'Austria, tramite la Slovenia, li vogliamo sul lago di Garda, li vogliamo nel e nostro poi rompiamo mare. I coglioni. Ma questi dai. Qua quando arrivano vogliono vivere, cioè i clienti quando mi venivano incontro oggi mi davano la mano, io ero imbarazzato. Tutti vogliono vivere, è evidente, tutti noi. Di fronte a un cliente. No, ragazzi, non diciamo stronzate. Ma dai. Tutti noi, ma c'è una differenza tra questo e 5.000 persone in piazza. Ma come fate a non ma capirlo? Ma quelli hanno vinto una cosa, che devono rimanere a casa, tappati a casa. Il calcio c'ha altre regole. Ma non è ma il calcio. Ma che calcio è che il calcio c'ha altre regole rispetto al paese normale? Ma in che mondo vivete? Ma prenditela con De Magistris, prenditela con De Luca, prenditela con la polizia. Io non difendo. Io dico al posto loro, l'ho detto anche Mentana, credo oggi. Ma questo non c'entra nulla. Avrei fatto la stessa cosa. Non sono assolutamente d'accordo. Grazie Andrea, Carlo da Pavia. Avrei fatto esattamente la stessa cosa: andare in piazza e esultare con i miei amici, con le persone che conosco. Senza mascherine, 5.000 persone. Bravo, esulti con le mascherine, esulti. Dai, ti voglio. Ma tutti gli altri sono tutti coglioni. Non ho capito. Zero morti, due persone in terapia intensiva a Napoli. Sono 14, ma cosa c'entra? Due persone in terapia intensiva. Il virus ma che 14? Hai rotto il cazzo con queste stronzate, Carlo da Pavia. Ancora credi a queste stronzate? Hai vissuto per settimane con quella mascherina a Milano e uscivi di casa solo quando vieni. Allora di che stronzate parli? Pavia, ancora lo faccio. Mi senti? Ma questo non vuol dire, non vuol cioè, dire. Gli altri possono morire e tu però invece ti salvi, no, è divertente. Carlo, dimmi. Mi senti, Cruciani? Sì, ti sento. Ebbene, io voglio intervenire sul tema piscio nel lavandino. Ed è una cosa molto importante, perché io vivo in uno studentato qua a Pavia. Il bagno è in comune ed è molto lontano dalla mia stanza, ma io in stanza ho un lavandino e io lo uso quotidianamente per pisciare. E non voglio che per questo Parenzo mi dica che io sia un fascista o un fascista, depravato. No, fascista non dire, non lo so se è fascista. Sicuramente è un maiale. Ma perché? Perché? Perché fare un maiale? Perché in Occidente da un monte di tempo a questa parte. Ma no, se quello vuole urinare nei lavandini, può urinare nei lavandini? Ho detto potrà che urinare nei lavandini questo lo Carlo? Fa, ma se lo fa a casa mia gli arriva una sberla, ma a casa mia ma lui non vuole ci viene. Ma a casa tua? Esatto. Ma verrei molto volentieri a casa dopo tua, di ma che, non per pisciare nel lavandino. Dopo di che, in dopo quali di lavandini che? Pisci di solito tu, Carlo? Solo il mio o qualcuno dei miei amici. No, solo, quando ti sta, lo devi piccolini. Fare quando ti sta sul cazzo qualcuno, parenti, ma no, eccetera. Sì, no, no. Bellissimo. Per quello bellissimo. C'è il cesso, è molto più comodo pisciare nel cesso. E perché il ci fai il cesso? Il cesso è normale, vai là nel lavandino, una persona che ti sta su coglioni, un parente stronzo, pisci nel lavandino e con la speranza che subito dopo entri qualcuno, magari la stessa persona che ti sta su coglioni, si lavi le mani e un po' sfiori la tua urina. Ciao Carlo, ciao. La Zanzara. Ciao, sono Nina da Venezia. E vorrei tanto fare sesso con Cruciani. I love my radio. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Acquisto o noleggio? Perché scegliere quando puoi averli tutti e due? Con Noleggio Chiaro puoi scegliere oggi l'auto di Fiat Chrysler Automobiles che desideri e acquistarla dopo 3 anni a un prezzo garantito. Ad esempio Alfa Romeo Stelvio Super con cerchi in lega da 19 pollici e tuo da 349 euro al mese. Con RCA, furto incendio, copertura danni e manutenzione inclusi nel canone. Offerta valida fino al 30 giugno e soggetta ad approvazione Lisis. Durata del noleggio 36 mesi. Anticipo 11.900 euro. Info su noleggiochiarofca.it. La Zanzara. Barisoni gay. Menagramo d'un menagramo. E ogni giorno ve ne inventate una e un'altra e prima il plexiglass, e poi il distanziamento di 4 metri, e poi il distanziamento di 2 metri, e poi la cosa, e poi le mascherine, e poi la visiera. Ma andate a fanculo, cominciate a lavorare voi, che prendete lo stipendio grazie a noi. Andate a lavorare, merde, non fate un cazzo, pigliate lo stipendio, vi fate le seghe dalla mattina alla sera, siete un branco di parassiti. Cala, cala. Professore, lei è stato invitato agli Stati Generali? No. Vabbè, le menti brillanti dell'Italia non invitano questo... Ma intanto a porte chiuse non ci sarei andato. Ah, no. Prima, no, perché mi sarebbe piaciuto che la gente ascoltasse quello che avevo da dire eventualmente. Ma lei non ci pensa a scendere in campo? Sono vecchio. Però forse, neanche da Presidente della Repubblica? No, sono vecchio. Allora, Salvini su De Luca, senti che poi De Luca gli ha risposto, senti. Mi domando dov'era il signor De Luca, quello che era pronto a usare i bazooka contro i milanesi e contro gli italiani che andavano in giro per Napoli e per ma la Campania. Ma lì glielo chiedo senza, diciamo, sarà la responsabilità è la polizia municipale, quindi il sindaco... De Luca annuncia grande battaglia. Daremo domani senza fretta una risposta congrua a un somaro geneticamente puro. Per il resto, parlando di cose piacevoli, onore a Rino Gattuso e lunga vita al catenaccio, che si conferma uno strumento di perfida efficacia nel fare impazzire gli avversari. Signor Vincenzo De Luca annuncia una risposta al somaro geneticamente puro. Salvini che dice il lanciafiamme dov'era. Però Salvini poi se la prende con la droga. Ora che cazzo c'entra, caro Salvini, la droga con le ciliegie o con quelli che propongono la legalizzazione della marijuana? Senti. Dovremmo legalizzare la droga e legalizzare la filiera della canapa per rilanciare, ed è un emendamento vero. Io impazzisco, ho due figli, la droga è merda, la droga è morte, la droga uccide l'anima, il cuore, il cervello. Come si può pensare di ricostruire un paese chiudendo le scuole e distribuendo marijuana? Siamo veramente alla follia. Prima si vota, meglio è. Allora, chiudere le scuole e distribuire marijuana non è il programma, diciamo, del governo. No, però posso dire, su chiudere le scuole si può discutere, per carità, forse è sbagliato, altri paesi hanno riaperto, alcuni in alcuni casi sono tornati indietro, hanno chiuso alcune scuole, ma lasciamo perdere. Ma cosa c'entra distribuire la marijuana? È un'altra roba. No, nulla, infatti. Allora, io direi di chiamare, perché la cosa mi fa molto incazzare, quella senatrice della velocità nei giorni scorsi, quella senatrice dei 5 Stelle, che mentre i suoi colleghi vogliono legalizzare la marijuana, giustamente, lei invece vorrebbe chiudere i siti come Escort Advisor, Bacheca, eccetera, quelli che pubblicizzano il lavoro delle puttane, e probabilmente chiudere anche i bordelli. Pronto? Senatrice Maiorino? Sì. Buonasera, mi chiamo Cruciani. La disturbo? Vabbè. Perché vuole denunciare Escort Advisor? Leggo addirittura per favoreggiamento della prostituzione. Stando alla legge attuale, persino accompagnare una prostituta o escort sul luogo di lavoro in macchina configura favoreggiamento, se immagini. Dunque, figuriamoci mettere degli annunci. Fornire una vetrina virtuale, che lei mi insegna, una vetrina che sia virtuale o fisica rimane una vetrina, appunto per pubblicizzare servizi di prostituzione. A parte che lei sa, senatrice, io non sono d'accordo su questa cosa, però lei ama il confronto. Sembra un'ottima idea, senatrice. No, io sono d'accordo invece. Opinioni, io mi baso su quella che è la legge attualmente. Sì, però loro sono in California. Sì, però esercitano in Italia. Ma no, ci sono una marea di problemi. Lei ha ragione. Peraltro la giurisprudenza, finora ci sono già state delle sentenze, sono state tutte a sfavore di chi ha cercato di condannare. Cioè, scusi un attimo, posso fare una domanda molto chiara? Lei vorrebbe che questo sito chiudesse? Sì, cioè lei vorrebbe... vorrei che tutti i siti del genere chiudessero, non soltanto Escort Advisor. Comincio da quello perché mi sembra... E così poi, che ne so, Bacheca e altri, guardi, altri siti. Ma neanche li conosco. No, io li conosco bene perché ogni giorno... Perché li frequenti, purtroppo. No, li frequento, ma non c'è niente di male a frequentarli, non c'è niente di male. La senatrice comunque ha posto un tema fondamentale, quindi intanto grazie per averlo fatto. Perché che Parenzo mi è d'accordo, ovviamente Parenzo è d'accordo. Assolutamente sì. Però io, scusi senatrice, io voglio capire una cosa. la prostituzione è anche, è anche libertà, dunque c'è anche la libertà, siccome è lì, prostituirsi legge. Infatti la legge Merlin lascia assolutamente salva l'autodeterminazione della persona, non e se uno si vuole prostituire lo può anche pubblicizzare, altrimenti come fa a prostituirsi se non può pubblicizzare? Lo può anche pubblicizzare, ma con mezzi propri, chiunque aiuti a pubblicizzare fa favoreggiamento. I frequentatori delle prostitute come li giudica, cioè come li considera, chi usufruisce di quelle, di quei allora, servizi? Non si tratta di giudizio, allora, se vogliamo parlare in maniera seria, non so se ce n'è il tempo, no, i dati tutti gli osservatori dall'ONU all'Eurostat all'Europol ci dicono che il 90% dei casi di chi si prostituisce è vittima di tratta. Allora, un cliente, se lei mi chiede io come lo giudico, intanto non è un giudizio morale, è un giudizio giuridico. Intanto questa persona deve mettere in conto che 9 volte su 10 si può trovare di fronte a una persona che è stata costretta da circostanze della vita o addirittura però non è compito suo, diciamo, in qualche modo accertarsi di questa cosa. È un po' facile scrollarsi. Però voglio dire, cioè, esiste la prostituzione da quando esiste il mondo ed esiste lo scambio sesso-denaro. Tantissime cose che esistono da quando esiste il mondo, però alla fine una certa civilizzazione ci ha portato a dire che non dovevano più esistere. Cioè, secondo lei, i bordelli, la schiavitù è una di queste. Esiste dall'inizio, da quando l'uomo è comparso sulla terra. A un certo punto abbiamo deciso che la schiavitù non si può paragonare la schiavitù alla prostituzione e delle persone che liberamente. Enorme, perché anche questo che oggi a noi sembra un concetto accettabilissimo, che la schiavitù non è consentibile. Scusi, senatrice, secondo lei la prostituzione è eliminabile? Non è stato così immediato e indolore. Secondo me la prostituzione è una forma di schiavitù molto subdola. Ha ragione, e secondo me verrà un giorno in cui ce ne renderemo conto e parleremo della prostituzione come oggi parliamo della schiavitù nei campi del cotone. Secondo lei chi va a prostitute è un po' una roba animalesca, è un po' un animale chi va a prostitute così, con una donna che non conosce, pagando e sfogandosi? Temo però questo, forse uno psicologo, chi ha dati è una persona che ha qualche difficoltà di intrecciare una relazione paritaria con una donna. No, scusi senatrice, è legittimo per un uomo cercare il piacere personale pagando, questo voglio dire, non è come no? Cioè, no. Perché non è legittimo? Pagando. Ma mi dica lei perché dovrebbe essere? Ma perché lo è? Perché nei fatti. Io ho letto la Costituzione, non c'è questo diritto, non c'è. Ma non è diritto, ma è la realtà. È la realtà. Quindi, in nome di un diritto che non c'è, nome di un diritto che non esiste, si stanno sacrificando centinaia di migliaia di donne che, le ripeto, per lo più sono delle schiave. Guardi, le donne che stanno su Escort Advisor, sono libere, sono donne libere. Grazie al cielo nel 2020 chi ha voglia di farsi una serata bella, allegra, non ha problemi, perché oggi appunto c'è la libertà sessuale piena, per cui non c'è. Dunque i bordelli che aprono adesso in Austria e in cose, per lei sono dei posti da abolire, da chiudere, lei li chiuderebbe? Sono popolati di donne straniere che per lo più non parlano nemmeno il tedesco, non sanno cosa gli sta capitando. Lo assicuro che sanno benissimo, sanno benissimo quello che le sta capitando. E per di più, dice lei? E per di più molte sono vittime di tratta. Secondo lei i bordelli andrebbero chiusi, cioè quelli che chiamiamo noi bordelli? I bordelli sono la catena industriale proprio della... Dunque andrebbero chiusi domani mattina? Cioè secondo lei è un'offesa alla donna? Li chiuderanno, guardi cosa le ma dico. Ma non è vero, stanno riaprendo il primo luglio. Speriamo, Germania, bravo. E Austria e Olanda li chiuderanno. Io credo che la legalizzazione sia una grande cosa per lo Stato, per la sicurezza meglio. Delle donne. Io la invito a informarsi Io mi informo ogni giorno sulla prostituzione. Io credo che il bordello o la legalizzazione in generale sia un grande vantaggio per lo Stato che prende soldi, per la donna che viene controllata e per il cliente che va in un posto sicuro. Questo non c'è dubbio. Prende soldi sulla sofferenza e sulla non possibilità di scelta, perché comunque i dati dimostrano che anche quel residuale 10% di persone che hanno scelto, come dice lei, la prostituzione perché in condizioni di vulnerabilità, uno Stato del genere non è da definire. Ma ci sono altri, ma la prostituzione, dunque Slovenia, Germania, Svizzera, Austria sono paesi papponi, sono paesi dove lo Stato è pappone. Ma ragazzi, ma non possiamo pensare che sono tutti in impazziti, a noi invece che non abbiamo i bordelli siamo intelligenti. Dai, scusi, però facciamo dice. L'esempio della Francia, facciamo l'esempio della Svezia, facciamo l'esempio della Norvegia. Ci sono altre politiche, ma punire sono il cliente per lei è giusto? Sono civili che però hanno applicato una normativa completamente contraria. Lei punirebbe il cliente? Lei, quindi siamo uno a uno, palla al centro. No, uno a uno no, perché Germania, Austria, Svizzera, molti altri paesi più legalizzano. No, di più di Svezia, Francia, Islanda e Norvegia, che vuol dire? E combatte molto bene, senatrice, complimenti, perché queste battaglie sono allora importanti. Eliminiamo anche i sexy shop. Abbiamo che solo ne appena so. Cominciato, no. Guardi, siamo appena all'inizio. Viva la libertà delle donne di prostituirsi, le dico solo questo. La libertà delle donne è di prostituirsi, essere, anche, di anche di prostituirsi. E infatti scelgono, e infatti scelgono, infatti in molte favola? Scelgono, ma come no? Ma in quale vada a parlare con quelle di Escort Advisor e si renderà conto invece di denunciare. Di se denunciare, parlando, cioè, se ci parla, non con alcun. Se ci parla, si renderà conto che sono donne libere. Appena riesco ad ottenere testimonianze con nome e cognome, sia sicuro. Va bene, grazie, arrivederci. Arrivederci. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti. La zanzara. Tutti mi chiedono, Rocco, le dimensioni contano, le dimensioni, come si fa a farlo più grande? La domanda ricorrente è le dimensioni, ma nessuno parla della patatina, la patata, la patatona, ecco. Invitami che tu lì davanti, si sceglie la donna, da te in radio, voglio vedere se hai coglioni, si sceglie la donna, a me mi metti una vecchia di 90 anni senza denti con la dentiera e me la inculo e mi inculo pure lui, me lo inculo insieme alla vecchietta. Grande Max, ciao, ciao Rocco, ciao Rocco, ciao. Ciao. Non tutte ce l'hanno uguale, ok? Ma non solo. Ad ogni età il suo percorso. Le teenager a volte sembra che siano sempre in grande voglia, in realtà non è il periodo migliore. Quello migliore è quello di mezza età, dai 30 ai 40. Ragazzi, dai 30 ai 40 le donne danno il top. Vabbè, abbiamo con noi, caro David, questa era una voce conosciuta, quella di Rocco Siffredi, una storica, diciamo tra virgolette, nemica di Rocco, una delle più grandi però pornostar italiane, conosciuta come la Sofia Loren del porno degli Stati Uniti, già ospite in questa disgraziata trasmissione qualche anno fa, Priscilla Salerno, che abbraccio, saluto. È a Verona, ma è salernitana. Abbracci, ciao Priscilla. Ciao, ciao, ciao ragazzi, come va? Beh, non c'è male, cara mia, non c'è ci male. Difendiamo, cara, ci difendiamo. Voglio capire se la tua attività è ricominciata dal punto di vista, come dire, delle scene girate. Dovevi andare in America, che è successo nel porno? Mamma mia, un casino, è successo come in tutto il mondo. Niente, devo andare in America, sono andata in America, un viaggio organizzato ormai da un anno. Dovevo andare sia nella sede principale di Pornhub che in alla Bracer, avevo un contratto fotonico, ero super felice perché era l'ultimo anno questo che giravo come attrice, ma continuerò come produttrice, continuerò nel mondo del porno. Sì. Però lockdown, chiusa in casa a Miami per 3 mesi, niente, sono tornata a casa e punto e basta. Devo però mi dicono, qua, mi dicono Priscilla, che è una persona molto amata nel porno, dagli americani, dagli italiani, ha degli ottimi numeri, eccetera. Da quanti anni fai il porno, Priscilla? Madonna, da tanto tempo, e ho smesso per 6-7 anni, ma il mio amore è sempre quello, comunque mi piace troppo. Guadagni abbastanza, diciamo la verità, ti fa guadagnare abbastanza, stai bene. Siamo oltre 200.000 l'anno, ci riesci a guadagnare col porno? No, ci riesci a... Col porno indotto e tutto, quanto riesci a fare? Adesso non è che voglio sapere i cazzi tuoi, il tuo reddito. No, stai bene, comunque hai una vita superiore, insomma, una vita borghese, dai, chiamiamola così. Ma è vero che tu stai facendo un po' di soldi anche con OnlyFans, con i video su richiesta? Mamma, ragazzi, ho scoperto questo OnlyFans che mi ha tenuto comunque... Cos'è? viva, e sì, ci sono le richieste che ti fanno i fans. Poi è un social che parla poi privatamente con te, puoi mandare le foto che vuoi, video che vuoi. Ecco, tu per esempio, io posso, potrei chiederti un video, quanto, quanto può costare, ne so, tu che scopi con qualcuno, quanto può costare? Ma voglio... minimo 1.000 euro. Ah, minimo 1.000 euro. Frega, la richiesta più assurda che te, come no, Priscilla Salerno, che Priscilla Salerno che scopa, che ne so, con un notaio, non lo so, che ne so, uno c'ha, qual è la meraviglia. Qual è la richiesta più incredibile che ti hanno fatto? È di scoparmi un trans, fammi scopare da un trans con un cazzo enorme con le tette giganti. Ah, questa è la richiesta che ti hanno fatto. E quanto sono disposti a dare per questa richiesta? 5.000 euro. Hai accettato o no? No. Ma aspetta, amica mia, io ci penserei bene. Io accetto. Io ci sto pensando, perché capito, perché comunque poi diciamo che il mio sogno erotico, io ce l'ho ancora un sogno erotico nascosto, è farmi scopare da un trans. È bello, che aspetti, scusa, 5.000 euro, no, 5.000 euro, video casa, privato, video sì, privato, eh? E qual è la cosa? Cioè, qual è il dubbio? Ma un trans scelto da chi? Da chi vuole pagare o un trans scelto da te? Da me. Ah, da te pure, cioè tu puoi scegliere un trans. Posso scegliere un trans. Con il pisello enorme, con il cazzo enorme e con le tette enormi. D'accordo, qui non c'è difficoltà, nel mercato si trova, diciamo, si potrebbe trovare. Pure cioè, quali sono le tue remore, quali sono? Non lo so, perché sono sempre stata un po' delicata come pornostar. Comunque, sì, vero. Pornostar, ah, poverina, mi dispiace molto, mi dispiace. Sì, ma chi è che parla? È Parenzo? Parenzo, sì. No, è sempre lui, l'indegno di Parenzo. Sì, l'indegno, brava. Sono io, cara signora, buonasera. Sono nera cara. Con Parenzo. Sì, è nera perché una volta hai detto che era una prostituta, sì. non no, un artista. Vabbè, sono stata male 20 giorni. Chiedo scusa, non volevo. Non hai fatto distinzioni tra due mestieri, un mestiere e un altro. No, chiedo scusa, lei è un'attrice. Come sai, cara Priscilla, ci sono molte pornostar ormai, soprattutto quelle, diciamo, più giovani, che fanno le due cose insieme. Non è che poi fare la prostituta sia una cosa, sia un'offesa. Io considero la prostituzione un mestiere come un altro, come la pornostar. Come assolutamente. Però, soltanto che uno fa una scelta di vita. Altre richieste assurde che ti hanno fatto di video privati? Per esempio? Ne ho tantissimi. Tipo i piedi vanno alla grande, fare seghe con i piedi, fissing con i piedi. Ma quello l'hai fatto già? Quello l'hai fatto, il pissing con i piedi? Sì. Quello l'hai fatto. Quanto ti hanno dato per una scena? Calcola che il mio rate non parte mai da minimo 300-350 euro under su. 300-350. Dunque, una scena con uno che ti fa pissing, uno scelto da te, naturalmente, che potrebbe essere anche un tuo amico, diciamo, no? Uno scelto da te che ti fa pissing sui piedi, quanto costa? Siamo sui 700-800 euro. Cioè, se volete, ragazzi, se volete fare, avete una vostra fantasia. No, facciamo pubblicità. Se volete una vostra fantasia, per esempio, uno che si fa, Priscilla Salerno, che si fa eiaculare sui suoi piedi. Magari te l'hanno chiesto anche questo, no? Ma cioè, i piedi vanno proprio alla grande, ci sono dei feticisti, vanno fuori, ecco, anche per le scarpe, le vendite delle mutande. Ma l'hai fatto, scusa, per esempio, un video su richiesta con una persona che ti eiacula sui piedi, l'hai fatto? No. Sì. Ah, l'hai fatto. E quanto costa questo? Sì. 500. E il fortunato chi è? Come l'hai scelto il fortunato? No, mi hanno scelto loro perché sono i miei abbonati, capito? Ah, l'hanno scelto i tuoi abbonati, cioè l'hanno scelto, esatto, i tuoi abbonati. Faccio anche dei contest. Ragazzi, è la nuova frontiera, potrebbe essere una nuova frontiera questa roba qua. Cioè, sai anche, no, ma veramente i piedi, per esempio, l'eiaculazione sui piedi, tu non l'hai mai provata, Parenzo? Cioè, a qualcuno, so chiedo che tu scusa, non risponderai a questa cosa. Scusa qua. Se in genere non hai eiaculato sui piedi, Parenzo. Chiedo scusa, signore, se in genere io non rispondo a queste domande, però in questo caso voglio fare un'eccezione e voglio darvi una risposta chiara, completa chiara e definitiva. Sì, sì. Io in genere non intervengo mai come Crociani sa, e quindi non rispondo alle domande su queste materie. Però in questo caso, questa parte di trasmissione mi vede semplicemente pigro ascoltatore, no, che pigro di quello ascoltatore, che avviene, moralista eccetera, col ditino alzato, con l'indice alzato. Però in questo caso la tua risposta mi avete interpellato. Potete anche riformularmi la domanda un'altra volta. Hai mai provato a eiaculare su una donna, sui piedi di una donna? N-O. Male per te, diglielo, Priscilla. Male, male. Malissimo, perché è un posto erotico. Proprio. Sì. Senta, piede, signora, lei per me erotica può farsi fare sui piedi quello che vuole. Può lavarseli, può tenerli per sé, può farsi urinare sui piedi. Lei, per quanto proposta, riguarda Parenzo, la mia vita, lei. Fai una proposta. Le faccio una proposta, Parenzo, per farla pace. Lei deve eiaculare sui piedi. Esatto, eiacula sui piedi della sagrata. Ti fai eiaculare gratis gratis. Sì, io non faccio in giro queste cose così a gratis. Te lo fare gratis. Ma che cosa me ne frega a me di fare sta roba sui piedi della signora che manco la conosco, francamente. Vi chiedo allora, scusa. Però voglio chiedere altre cose a Priscilla Salerno, sì, perché questo sì, è già fantastico. Un'altra cosa è questa: è vero che una volta hai detto di Rocco che non ti piace il suo modo di fare porno, eccetera, eccetera. Però lo hai definito. Un vecchio sporcaccione. Che vuol dire vecchio sporcaccione? Perché vuol è dire? Un vecchio sporcaccione. Cioè, che vuol dire? Ma chi è questo? Feltri? Vecchio, perché ormai è su di anni e quindi meglio mettersi da parte, perché c'è un tempo per tutto. Anche io mi metterò da parte, c'è un tempo per tutto. Vecchio sporcaccione perché fare i provini a telecamere chiuse, le ragazzine di 18-20 anni perché vogliono sfondare nel porno, lui vuole però è il suo lavoro. Ho capito, però, telecamere chiuse. Però scusami, però quello è il suo lavoro, cioè quello è il suo a lavoro. Telecamere fare chiuse? Beh, a telecamere chiuse, certo, a telecamere chiuse che vuol dire? Cioè, non è che fate compie dei reati. Cioè, No, assolutamente, per me è un vecchio sporcaccione. Sì, ho Io capito. Le faccio a telecamere accese. No, però adesso, telecamere chiuse è perché evidentemente... Parliamo di altro, non diamo pubblicità ancora di più a gente che non mi sta sul cazzo proprio. No, ma lo so che ti sta sul cazzo, però è anche il re del porno, cioè, ma diciamo la verità. Ma vedi che lui è il re del porno, lui è un grande, ma c'è tempo per tutto. C'è un tempo. Vabbè, ho capito, però sarà lui a decidere quando ritirarsi o no. Cioè, io difendo sempre Rocco, perché Rocco appartiene a quei miti italiani e tu un po' lo vuoi smontare. Non lo voglio smontare. Lui è un grande, ha fatto la storia, ha portato la bandiera italiana, il cazzo più grosso di... Però il problema è che... Tu dici che è troppo violento, dici che è troppo violento. Violento. Ma poi le telecamere spente non si fanno i provini. Vabbè, ma perché? Poi ma quello se le vuole... se le vuole chiamare tutte, dai. Vabbè, ma non è un reato, c'è numero uno da questo punto. Vabbè, comunque, andiamo oltre. Andiamo oltre. Una volta da noi hai detto che ti piaceva Salvini per tante cose, ma è ancora così 2 anni dopo? Pagliaccio alla fine dei giochi, ragazzi. È un pagliaccio ormai, lo vedi come un pagliaccio. Sì. Vedi che il consenso di Salvini, caro Parenzo, si abbassa anche per queste cose anche qui. Tra le porno star. Può essere provato il calo dei consensi. La anche... inviteranno la signora alla prossima maratona mentana, evidentemente, per le sue preziosissime analisi. Che cos'è che non ti piace più? Cos'è che non ti piace più di Salvini? Io penso che la politica di oggi non sia politica. Io penso che sia comunque. Una mafia tra di loro, perché chi mangia di più. Quindi comunque chi entra con dei buoni presupposti alla fine va a finire sempre lì. Cioè, non capito, cos'è che non ti è piaciuto di più? Una volta hai detto l'immigrazione, eccetera, parla chiaro, eccetera, eccetera. Lui gli hanno tagliato le gambe, a parte che l'immigrazione è tagliata da sole. Ragazzi, gli hanno tagliato le gambe. È lui che ha fatto cascare il governo, cara la mia politologa pornostar, che si fa fare sui piedi quelle porcherie. Non aveva più consensi, non aveva più senso, perché un parlamentare deve fare il parlamentare. Comunque un pagliaccio lo consideri adesso. Sì, un po' pagliaccio. Un po' pagliaccio. Senti, una cosa, ma è vero che vuoi fare dei tutorial per il cunnilingus, per leccare la figa, perché gli uomini non sono capaci? Non sono capaci, ragazzi. Ma com'è possibile che non sono capaci? Scusa, com'è possibile? Sono veramente sconvolta. Infatti devo insegnare, come ho insegnato l'arte... Del pompino, insegnerò l'arte a leccare la figa alla donna e farla godere. Tu sei single? Sì, dopo 3-4 mariti, 5-6 fidanzati, oggi in single. Questo momento sono single. Sei single, dunque ti puoi dilettare. E la tua esperienza è che gli uomini non sono capaci a leccare la figa, questo è il punto fondamentale. Beh, un titolo per domani. Loro picchiettano, fanno i picchi, oppure mettono la lingua dove non la devono mettere, cioè il clitoride è su, non è giù. Questo è interessante. Però un'ultimissima cosa, anche se siamo un po' ridato, non mi interessa. Raccontaci il film che hai girato, che devi girare in 30 secondi con Martina Smeraldi. Qual è il plot? Qual è la trama? La Martina sarà la sacrificata, la grande bellezza porno. Cioè? Io girerò una mega orgia con tutte queste donne stupende di tutte le tipologie ogni città d'Italia per rilanciare il turismo anche farò vedere e prenderò questi ragazzi che poi scoperanno la mia Martina. Tutte le città d'Italia per rilanciare il turismo italiano, ragazzi. Viva l'Italia, viva il porno! Ciao, lei è perfettamente bisex, ma l'amica perfettamente bisex. Ciao, Parenzo, ciao. Viva italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Lei mi ha ridotto sul lastrico, Menagramo. Se ne vada, sparisca! Menagramo, prima che la licenzi, Menagramo d'un Menagramo.